amici tuoi incerti. Nel solco che hai lasciato scorre il sangue freddo di tante vite. Giunto qui col tuo coltello e tante brutte cose del tuo fratello. Un'anima ma non potevo intervenire. Dovevo scoprire la verità. E ora qui tu sei tornato dal buio alla luce di questa cima. Sempre.